Wall Street, I viaggi del lupo. Febbraio, 16 febbraio, mi stavo già confondendo. Oggi è 16 febbraio, è venerdì ed è una nuova puntata di Wolf Trips. Mi fanno gestacci, dopo vediamo il perché. No, c'era un rumorino che... C'era un rumorino, vabbè, intanto c'è sempre qualche rumorino. Oggi ci siamo io, Domenico Biancardi, c'è la Cri e c'è... Tony. La Cri sta guardando la... come dire, la... Che sta guardando? Sta guardando un altro programma. Sta guardando un altro programma. Non va bene. Adesso invece ci concentriamo su Wolf Trips. Tra l'altro oggi 16 febbraio mi stavo guardando un po' quello che era successo negli anni. E caro Tony, nel 16 febbraio di un bel po' di anni fa, pensa, c'era stato un'eclisse solare totale. Una cosa incredibile, 1980. Io non c'ero, non so te. Ah no, io invece ho guardato per caso. La prima cosa che mi è venuta, che ho visto è che... Sì? Iniziano le trasmissioni di Radio 105. Sì, sì, è vero. Non volevo dirlo, però era una cosa. È una cosa carina, perché poi nel 1976. L'anno delle radio libere. Sì. Tra l'altro, Radio Lupo c'era già, forse 76. Magari. Non so quanto era pirata, no, non lo so. Perché poi. Non so se intendono per radio. Diciamo non ufficialmente, però. Ma tutte radio pirata. Sì. Nel 76, sì. Poi altre cose carine che avevo visto che erano successe nel 16 febbraio del. Allora, dov'è che l'avevo vista? Eccolo qua. Nel 1946 pensa che entrava in funzione il primo computer, l'ENIAC. Quindi nel 1946. Una roba italiana? No, ENIAC no, mi sembra di no. Mi sembra che fosse una... Forse allora c'era un italiano nel progetto, ma era una roba... comunque una cosa collegata in Inghilterra, però era collegata comunque agli eserciti, alla guerra, sì, cosa del genere. Mi sono confuso con... l'ingegnere Olivetti che inventò il primo PC, diciamo. Però se non erro c'era un italiano nel progetto, come cosa. Oh, che seri che siamo stasera. Sì, stasera, no vabbè, ma l'inizio è così, poi partiamo, poi ci sciogliamo un attimino. Ok. Tu invece crei qualcosa da dire? Nulla da dichiarare? No, nulla da dichiarare, dichiaro solamente che era tutto ancora aperto, non so da che programma, però era ancora tutto aperto. In che senso? Le pagine, quindi non ero io a guardare un altro programma, era aperto sulla pagina di questo programma. Ho capito. Vabbè dai, andiamo ad ascoltarci un po' di musica, stasera abbiamo anche un po' di musica di Tony, giusto? Hai portato un po' di roba. Di roba buona, un paio. Pensa che io ho anche iniziato a preparare un pezzo di sigla. In realtà non è proprio una sigla, ma anch'io, è in costruzione la tua sigla. Sì, mettiamola così. Di sigla ne parleremo anche dopo. Perché c'è va bene, ci lavoriamo. Hai un stacchetto da proporci? No. Si parla di un altro programma ancora, vedi. Noi siamo qui. Vabbè, siamo friends. Alla buona. Giusto, mi sembra buono. Grazie. Andiamo a ascoltarci il primo brano, che si chiama Hot and Cold, ma non è di Katy Perry, ma bensì di Felix Buxton, che è un DJ sempre di Los Angeles, come al solito. È una canzone molto carina. C'ho anche brani molto conosciuti comunque in playlist stasera. Andiamo dopo a esplorarli piano piano. For all the completely missable. Vabbè, dai, non era male, un bel groove. Sì, è vero, è un bel inizio. Dai, dai, ci sta, ci sta. Intanto qua c'è una mosca sotto, una zanzara, la zanzara. No, io non la sento, non la sento. Sarà Rita Pavone con la canzone La Zanzara? Sì, no, esiste. Questa è una nozione colta. Sì, ma se questo è il tuo, diciamo, il tuo, come dire, background. Immagino domani sera e non dico niente. E dopo ne parliamo. Però è meglio che ne parliamo a microfoni spenti. È tutta la settimana che ci penso domani sera. Anch'io. E me la sono anche preparata bene, quello è il problema. Contatti? Dai, facciamo i contatti. Ah, sì. Stavo pensando a contatti, è che contatti è il terzo tipo. Allora, se volete whatsappare al 338-222-8983. Oppure... Vai, Cri, invece lancia le tue... Oh, no, lei sta ridendo, quindi non può lanciare niente dopo. Lancia una risata. Ma... Devo lanciare? No, che dicevi magari qualche altro contatto, ecco, contatto del terzo tipo. Lui ha detto i whatsapp. Io ho il contatto alieno. No, che so, che cazzo... Sì, vabbè. La mail, faccia buca, quelle robe lì. Su Facebook ci possono trovare sulla pagina di Wolf Trips. Vabbè, scusami. Scusa, Verena. Cioè... È una cosa, fagliela fare, Ci trovate pure su Instagram. No, quello non è il mio telefono. Pure su Instagram. E ce l'abbiamo la pagina Twitter. Abbiamo la pagina Twitter, abbiamo la pagina Instagram. Lucellina. Quindi vi aspettiamo a cliccare whatsapparci su Facebook, Twitter, Instagram, sui vari social, perché la nostra trasmissione è sempre più social. Sì, no, in realtà c'è, poi non so chi è che interagisce, però sentiamo che c'è, va bene. Ti piace questa nuova base che ho recuperato? Sì, è vero, bello. Ho detto, mi sono iniziando a produrre un po' di basette per, diciamo, non basette, come barba, perché ormai... Sì, ma io leggo un'altra cosa. Sì. E diciamo, cioè... che è da dove viene, da dove proviene, ecco, mettiamola così. È la provenienza, sì. Poi dopo è stata un po' edulcorata, mettiamola, okay, così. Andiamo a ascoltare il prossimo brano, che è di Black Bear, l'orso nero. Doremi, no, l'abbiamo già messa, giusto? L'abbiamo già messa, tra l'altro è bella la copertina, cioè un po' particolare. Valla a cercare su internet. Cioè, cerca, in realtà è strana, ecco, un po'. Ho visto un po' anche... fuori di testo, mettiamola così. Lui è un rapper? Lui è un... sì, mi sembra... È un rapper. È un rapper americano e gira un po' tra Los Angeles, California, e produce musica tra l'elettronica e il rap. Non, sì, la definirei trap. No. Anche no. Vedendolo così. Va bene, andiamo a ascoltarcela con Doremi. If I could go back to that day we met, I probably would just stay in bed. You run your mouth all over town, and this one goes out to the sound of breaking glass on my Range Rover. Pay me back, good bitch, it's over. All the presents I would send, fuck my friends behind my shoulder. Next time I'ma stay asleep, I pray the Lord my soul to keep. And you got me thinking lately, bitch, you crazy. And nothing's ever good enough. I wrote a little song for ya. It go like, don't break me for so fucking done with you, girl. So fucking done with all the games you play. I ain't no tic-tac-toe. Save the X and O's on another note. I'm don't break me for so fucking done with you, girl. So say the X and O's on another note, I'm ghost. If I could go back to that day we met, I probably would've stayed in bed. You wake up every day and make me feel like I'm incompetent. Designer shoes is Annex tabs, compliments your makeup bag. You never had to buy yourself a drink, cause everybody want to tap that ass. And you got me thinking lately, bitch, you crazy. And nothing's ever good enough. I wrote a little song for ya. It go like, don't break me for so fucking done with you, girl. So fucking done with all the games you play. I ain't no tic-tac. for ya, it go like do, re, mi, fa, so fucking done with you, girl. So fucking done with all the games you play. I ain't no tic-tac-toe. Save the X and O's on another note. I'm do, re, mi, fa, so fucking done with you, girl. So save the X and O's on another note. Era un po' lenta questa, la versione quella che conoscevo era un po' più veloce, devo dirti la verità. Ho sì. azzardato, perché questa è quella dell'album. Forse ho trovato qualche remix, qualcosa di un po' particolare. Tu cosa volevi dire? Niente, che mi sto ammazzando da sola. Vabbè. No, qua si stava parlando di maschere di carnevale. Sì. Beh sì, da noi il carnevale ambrosiano è domani. Vero? Sì. E poi basta, si chiudono tutti. Meno male. Però già settimana scorsa hanno fatto delle sfilate con i carri anche qua in zona. Sì, in teoria la zona del Piemonte era la settimana scorsa, anche Venezia, no, mi sembra. Allora, non erro. Il Piemonte era martedì. Sì, che poi dopo si è festeggiato settimana Io scorsa. Non ho mai capito quando inizia, finisce. No, in Piemonte dove sono collocata io, no, si è festeggiato martedì pomeriggio. E io ti posso assicurare che in Piemonte, dove sei collocata tu, hanno fatto i carri domenica. Io dico, te lo posso confermare. Vi saluto. Allora, non penso, perché c'era la salamella con la polenta martedì dopo la sfilata delle maschere. E me l'hanno detto, mi hanno pure invitata, solo che io dovevo lavorare e quindi. Beh, ma si festeggiano due carnevali. Al paese quello romano era... e quello milanese. Vabbè. Al paese era a Domodossola era domenica, te lo dico. Perché hanno fatto le foto a Cima anche. Era martedì. Vabbè, c'è questa guerra. Comunque diciamo che sì, vabbè, allora c'è il martedì grasso, quello sì. Poi diciamo quando si festeggia, però solitamente è poi il fine settimana. Dipende dai carnevali, ti posso dire. Non tutti festeggiano il weekend. Vabbè, no. Vabbè, siamo noi che la facciamo bella, vabbè, la facciamo sabato. Noi siamo milanesi. Infatti. Abbiamo visto prima la copertina di Black Beer. Su Google Immagini dà un sacco di immagini diverse della copertina. Ce n'è una che mi interessa, di una ragazza che posto... lo sapevo che andavi a parare su quella, guarda. Invece ero sicura. Il regista non c'ha. Vabbè, ma non si vede nulla di strano, però non è. E purtroppo no. Non sono come le copertine quelle anni 70. Lì si vedeva troppo. Ma una volta si usavano i vestiti quelli molto scollati. Una volta proprio non li usavano proprio nelle copertine, non è per cultura. Vabbè, è... comunque io volevo chiedere ai nostri ascoltatori da cosa vi vestite domani? Avete una maschera in particolare? Già un'idea su cosa dovete fare, dove volete andare? Potete scriverci al numero 338-222-8983. Ok. Intanto facciamo partire il prossimo brano, che ne stavamo parlando prima. Allora, lui è Bauer Fit Mia e il brano si chiama Temple. Il video è particolare, non so se ti capita, guardalo, perché non è male. E lei è una cantante abbastanza eccentrica, sì, mettiamola anche così. Sì, video, li ho visti alcuni video di Mia. Sono... Diciamo che fanno a lotta con Nicki Minaj a chi fa peggio, mettiamola così. Andiamo a ascoltarcela. Warriors, yo, get your freak on. You don't need money cause you won't be alone. Yo, I get you in the zone. You don't need money cause you won't be alone. Got my look at, girls got fit boys to look at. Tigers run, what the fuck you looking chick at? Fuck it, did you go to Phuket? Look it, when you come here you wanna get stuck it. Empty your pocket, phone out your jacket. La Thailand, my land is louder than a racket. In my jungle, don't stumble on my symbol. Everybody know, faster than 100 with the arrow to the bow. If you step close, I'm gonna let it go. Body, body, body, body, body, body, bow. When everybody heard about me, everybody know. Faster than a hunter with the arrow to the bow. If you stay close, then I'm gonna let it go. My bed is like a lattice and I wake up on it blessed. Start the day, wake up on it, bend it, bend it, flex. Every girl together, we can still do it best. People with the money, what they do more or less. Goddess on the ground and I'm best by default. Step into my temple and you see me on my throne. Gold on the dome, don't drop the drone. If you don't like it, then I'm gonna change your tone. Body, body, body, body, body, body, bow. Where everybody heard about me, everybody know. Faster than a hunter with the arrow to the bow. If you stay close, then I'm gonna let it go. Del lupo. Borussia. Borussia Dortmund. Vabbè, oggi siamo andati un po' più sul pesante. In realtà, devo dirti la verità, pensavo fosse un po' meno carico. Però vabbè, dai. Io faccio gli ascolti le canzoni. Tra l'altro Borussia Muffin, quindi ci sta bene con quello che stavamo facendo adesso, che stavamo smangiucchiando qualcosa. Sì, anche il Muffin infatti è leggerissimo. È probabilmente quello il motivo della, Borussia, della cassa. Pre-pranzo, pre-cena poi. Sì, ormai anche diciamo cena, voglio dire. Va bene, niente, stavamo un po' parlando... Dopo iniziamo a discutere di un po' di argomenti musicali, perché sì, ho letto un po' di articoli interessanti. È un programma musicale. Sì, dovrebbe esserlo delle volte, ogni tanto no, è così. No, io volevo salutare il buon Fabio. Sì, che ormai ci sta... Ci sta paccando troppo, un po' troppe volte. Adesso quando lo vedo lunedì lo riprendo. No, bisogna metterlo in riga. Sono d'accordo. Anche la Chiara, cioè la Chiara non dico... No, chi la è la Chiara? Perché dico Chiara? Che ne so, la conosci tu la Chiara, io non la conosco la Chiara. Collego la Chiara Francini con la Erika. Sì, è la tua conterranea con le tette grosse. Va bene, io direi che allora... No, allora, dimmi, sta parlando con la nostra amica Deborah. Sì, no, per carità, no, no. No, mica capiamoci. Che... Mica no, che... no, no, sono questo là... Avevo già una pallottola in mezzo agli occhi. Omicidio in diretta. Infatti. Nuovo programma su Radio Forza Italia. Secondo me lei fatto è un sacco veramente di una persona troppo buona, quindi va bene. Santa proprio. Vero, vero, posso confermare. Se fossi stata io al tuo posto, non so cosa sarebbe rimasto di Tony. Si parla di una persona che comunque è astratta, un'attrice, scrittrice. Non però... è astratta, esiste. Sì, no, vabbè, ma non che la conosco. Scusa, Domenico, mamma mia. Vabbè, vabbè, comunque sì, dovremmo invitarla la Erika. Tra l'altro, sì, tra gli inviti... Mi ha scritto che è un po' occupata, quindi adesso appena si libera, adesso appena è un attimo tranquilla... La richiamerò per fare un'intervista. Invece dobbiamo prepararci perché all'inizio di marzo avremo come ospite la band che dicevo un po' di tempo fa. Si chiamano Le Mondane. Le Mondane. Okay. E loro sono è un duo che suona praticamente la qualunque. Suona qualsiasi strumento. E in due tengono il palco molto bene. Infatti io ho chiesto anche di portare qualche strumento non troppo chiassoso e fare magari un pezzo. Adesso ci organizziamo bene. Comunque per gli inizi di marzo diciamo faremo questa intervista. Va bene, io direi che adesso ti lascio ascoltare l'idea che avevo per la tua sigla, che in realtà ancora non è del tutto pronta. Ci mancherebbe una voce, ecco, mettiamola così. No, io non sono d'accordo sugli uccellini, però. Non sei d'accordo sugli uccellini? Vabbè. Non ti piacciono gli uccelli? No, perché sinceramente no. Poi ognuno è libero che gli piaccia ciò che vuole. Mannaggia Tony, porca miseria, quando gli produco le cose ho sempre qualcosa. No, no, veramente è un altro tuo amico che è difficile, non io. Chi è? Sì? Che gli hai fatto te la base di sull'altra radio. Ah no, dopo ne parliamo di quello, ma ho solo parole brutte. Vabbè, niente, quindi abbiamo uno dei tuoi pezzi della mezzatonica, dici okay, un po'. Allora, questa sera... Però dai, ci sta la sigla. No, no, mi basterebbe la base. No, non ma gli uccellini piacciono gli mi uccelli. Sembra molto boscoso invece di mare, ecco. Sì, ok, dai, ci può stare. Cioè, dai, il gabbiano sarebbe anche scontato, però vabbè. Infatti. Sembra è andata fuori dove? Gli hanno di casa. Gli hanno strizzato... No, tu non abiti vicino ai boschi, cioè, più o meno. Sì, ma ci sono i gabbiani, Anche, lo so, sì, dove c'è spazzatura ci sono i gabbiani. Dove purtroppo. Sono i boschi? Vicino ai boschi, qua, ci sono i boschi. Ah, vicino a casa nostra. Sì, anche a casa mia. Va bene, allora, mezzatonica, ok. Ecco. Allora, per la mia rubrica, stasera ho portato un pezzo del mio DJ preferito, mio guru. PVD. PVD, alias Paul Van Dyk. Paul Van Dyk, DJ tedesco, direttamente da Berlino, da più di 20 anni sulla scena e maestro della musica trance. Però lui, tra i vari pezzi che fa, album e via così dicendo... Ho tirato fuori questo pezzo da un album di una compilation sarebbe The Politics of Dancing, che si chiama così perché lui vorrebbe che ci sarebbe una politica proprio del ballo per tutto il mondo. Ha delle idee un po' particolari, dai. Dimmi Cristina. No, no, niente. Volevo sapere un po' dove te lo immagini. Io sai che a letto me lo immagino. Sono sempre No, vabbè. No, non parlavo dei gusti. Ok. Curiosa di La canzone si chiama Guardian, che è una delle canzoni di questo compilation. Ascoltate, prima di mi compare ragazzi, l'immagine di uno che si sta slinguazzando un pesce. Credo e adesso pesce. Vorrei sapere che cosa stai guardando, Domenico. Ecco, non che adesso sia migliorata la situazione. Eccolo. Questo è proprio un pesce adesso. Vabbè. Niente, finiamo la canzone. Passiamo dagli uccelli ai pesci. No, qua. Rimaniamo seri, dai, rimaniamo seri. Non so più cosa dire. Vabbè, quindi andiamo ad ascoltarci il brano di Paul Van Dyke, giusto? Ci sta pronunciato così. Non Paul Van Dyck, sarà Paul Van Dyke. Vabbè, Dick, sì. Dick. Sì, parliamo sempre di uccelli qua. Ok. E poi si chiama Dyke. Guardian. Questa te l'hai detto meglio. Ti hai visto, guarda che ho studiato, mi sono preparato stavolta. Where's the smile I long to see back on your face? What am I to do? In the end I only want to know you're safe. To hold when you are worlds away. Ooh, a thousand thoughts of you will protect you in the thunder rain. Maybe they'll keep an eye on earth. Promise you. Maybe they'll keep an eye on earth. Promise you'll never will be hurt. Guardian. Thank you. era Guardian. Guardian. Comunque, secondo me, prima della fine di Wolf Trips, diciamo, sì, come pausa estiva, non che la fine, dovremmo fare un'oretta solo con questa musica qua. Dovremmo mettere il best of tua selection. Magari sì, farebbe piacere. Non sarebbe male. Un mix. Una specie di mix, sì, ecco, una specie di mix. Grandi, un long play, ecco. Con i grandi così. DJ, no? Con i loro programmi che fanno un'ora di... Una cosa speciale. Trans. The best slang, of Tonic. No? Bella, complimenti. Hai visto, Ogni tanto tira fuori delle buone idee. Ogni tanto è buona con me. Hai visto, Ma che, cioè, non è che... Tu però stai sempre all'occhio. Anche due. Perché guarda, non si sa mai. Pure tu, dall'altra parte. Va bene, quindi stavamo parlando della... intanto abbiamo fatto un po' di ricerche, giusto? Ho due informazioni. Sì, ma io già sapevo. Che sapevi già, Allora. No, vabbè, giusto per la sapere... La mi dica. Che, no, quelli che hanno collaborato con Paul Van Dyk a questo disco sono Ali e Fila, che sono due DJ egiziani. Egiziani. No, egizi sono quelli di prima. E hanno un loro work life Egyptian. E niente, hanno fatto anche qualche... Non mancherà domani. Ah, vabbè, chiudo il discorso. Comunque, vabbè. Il trenino? No. Ohio. No. Trenino lo lasciamo lì dove è in stazione. Già è vero. No, invece, giusto per chiudere il discorso, loro hanno fondato un'etichetta che io ho sempre visto la sigla, però non l'avevo mai, non l'avevo mai associata. FSOE. Oi. No. E non capivo mai cosa fosse. Adesso Future Sound of Egypt. Quindi, che musica trance poi alla fine. Sì, assolutamente trance. Ricordo che trance comunque non è una roba sconcia che trovi per strada, ma in realtà è un genere di musica, no? Perché, sai, sì, è vero. Che qualcuno può capire male. No, perché già vedevo lì che si stavano partendo. No, ma la mia consorte è venuta anche a vedere Paul Van Dyk a Milano. Bellissimo, e gli piace fantastico. La trance. Paul Van Dyk mi piace. Paul Van Dyk no. Paul Van Dyk era quello fuori che vende le salamelle. questa la dobbiamo depositarla. Guarda che poi ce la fregano a lunedì. Vabbè, ok, dopo questo. Sempre io credo. Continuiamo un po' con un pochettino di musica, però non c'è... No, porca miseria, mi è partito già il pezzo in sottofondo. Porca miseria. Non lo posso presentare, lo presento velocemente. Lui è DJ Shadow con Deft Charge. Che qua è leggero, eh? Leggerissimo. Vale, cuffia. Sì, sembrava effettivamente una base di un film, mettiamola così. Devo silenziarti? Dimmelo, avvisami prima nel caso. No, no. C'è Tony che mi guarda. Comunque, praticamente, e allora ti dico la Tony non ha parole, sappi solo questo. Infatti adesso parlo io per lui. Questo brano qua di DJ Shadow è uscito da un suo album, dal quale poi tireremo fuori altri brani un po' più, diciamo, mainstream. Questo era un po' B-side, mettiamola, effetti, così, mettiamola così. Che anno era sta canzone? Non mi ricordo, mi trovi impreparato. Però no, ma non dovrebbe essere troppo vecchia, perché era uno degli ultimi album che ha fatto. Quindi se non è 2016-2017, non più tardi. Ma lui è un DJ che comunque fa molte cose ufficiali o anche cose un po'... come si dice? Allora lui vede queste cose qua. Allora lui è definito anche beatmaker, nel senso molta roba la produce al momento, quindi utilizza molti campionatori, quindi tante robe io che ho trovato in giro sono cose che magari ha prodotto nei suoi live e poi non sono neanche mai state rilasciate. Okay. La gente le ha registrate, erano belle e le metteva in giro. Okay. Ma questo qua è proprio il suo album ufficiale, però ti ripeto, questo non è la traccia principale, non è una delle tracce principali, però dato che Wolf Trips è un po' l'esplorazione, volevo mettere un brano fuori un po' dai soliti canoni. Questo sembrava veramente, come dicevamo prima fuori onda, quasi un pezzo da film, sì. Ecco, mettiamola così. Quindi ci poteva Blade stare. Blade Runner quasi, diciamo. Blade Runner, sì. Come film. Un Arrow, una cosa del genere. Molto cupo. Va bene, va bene. E andiamo a... stavo cercando un po' di informazioni. Non so se... sono usciti un po' di articoli interessanti su magazine Rolling Stone. È vero che la direttrice non è il massimo della vita, che se almeno ci, se ci sente si ammazza, che dice una cosa del genere. Io l'ho scoperto ieri, sì. Non... cioè, guarda che lei è agguerritissima su queste cose. No, no, come giornalista sul non mi piace. No, a me come giornalista non piace. E lo stile Barbara D'Urso all'ennesima potenza. No, non mi piace. La sua amica del cuore, si potrebbe dire. Però devo dirti la verità: il sito che in realtà poi gestisce è gestito da molti altri giornalisti che hanno un bello stile di scrittura, di analisi e di cose. E per esempio, leggevo questo articolo qua che era potere al popolo ma anche alla copyright. Nel senso, sì, adesso che c'è il periodo election siamo in, e non parliamo di elezioni, che tanto chi se ne frega, okay. E, però mi faceva, era una cosa interessante che praticamente un partito per crearsi il suo logo prese come, diciamo, come disegno, come logo un'immagine del Festival Miami. Praticamente questa qua era l'immagine dove si baciano, sì, vabbè, sì, due donne, ah, ecco, un uomo e due maschi. E qua dove c'era il logo, dove adesso c'è scritto potere al popolo, c'era in realtà il logo Miami, che era il festival, un festival milanese abbastanza rinomato. E musica indipendente. Indipendente, elettronica, fa anche molta musica elettronica. Sì, ma la pagina è rockall.it. Sì, Rockall, sì, Rockit. Rockit, scusa. Rockit. E anche quest'anno poi ci sarà, tra l'altro... devo dirti la verità, conosco poca gente tranne Paolo Baldini, che fa musica molto carina da ascoltare. Anzi, dovremmo mettere anche qualche brano suo. E, sono talmente alternativi che non lo conosciamo neanche noi. Sono talmente tanti alternativi, cioè diciamo che sono talmente tanto avanti che quando guardano indietro vedono il futuro. Giusto. Sempre la solita frase ormai. E, no, la cosa che praticamente dicevano in questo articolo è che gente magari anche giovane che si butta nella politica, cosa fa? Ha rubato un manifesto che è stato pagato dal Miami, perché sì, questo qua è stato sì, fatto da un fumettista, e per mettere un suo logo e tagliarlo diciamo per rifare un po' quello che gli interessava, fregandosene un po' della copyright del Miami, ecco, mettiamola così. Vi prego basta. Non ricordatemi che io sarò 3 giorni chiusa dentro quella cavolo di aula. Non me lo ricordate. Io non per lo sapevo piacere. Saranno giorni d'inferno. Ma sei voluta andare te? Mi hanno chiamata. Puoi anche rifiutare? No, ci deve essere un buon motivo. Non puoi rifiutare così alla buona. È come se ti chiama a giudicare. Per morte puoi rifiutare. Sì, per morte sì, penso di sì. No, vabbè, magari per malattia, per gravi... diciamo che se tu hai un lavoro fisso e ti chiamano a fare lo scrutatore, ci devi andare per forza. Sì, ho letto come il candidato, se ti candidi sei obbligato a candidare. Beh, certo. Non puoi tornare indietro. Sì. Certo, certo. Vabbè, andiamo a ascoltarci. Saranno giorni veramente bui. Perché noi abbiamo le doppie elezioni. Yes, yes. Sì. Vabbè, non parliamo comunque di politica, di cose brutte. Io volevo parlare solo della questione che certa gente si frega le cose a livello di copyright e poi fa quello che vuole. Ma infatti non ho citato nessun partito politico. E credevo che comunque loro l'hanno fatto come si fa di solito, un copia e incolla, ma senza cattiveria. E in realtà però il Miami gli ha detto: guarda, rimuovete quella cosa lì. Loro hanno detto: no, ma non è vero. E allora si sono un po' incavolati, giustamente. Dopo, quando si partono le azioni legali, forse è meglio tirarlo via prima. Vabbè, andiamo a ascoltare il prossimo brano, che è della nostra amica Lord, che ha vinto un Grammy. E questo brano qua è il primo che ha fatto, diciamo, il primo che ha fatto successo. Nanta Piazza. È un mal di pancia, secondo me, però. No, perché è bellissimo, il brano è bellissimo. Vai in bagno. Si chiama Royals. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. Royals. It's a run in our blood. That kind of luck's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party. And everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. Royals. It's a run in our blood. That kind of luck's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler. Incredibile, ce l'abbiamo fatta, cioè una cosa proprio fina, mettiamola così. Ci hai visto sul web. Caspita, siamo diventati dei galli ormai della regia. Quanto manca? Un secondo. Tac. Cioè, neanche penso nelle regie più famose. No. Queste cose. Questo è peggio di un clock. Tac. Partita. Comunque sì, il brano era a me piaceva. A me piace anche soprattutto il video. No, non me lo ricordo. Sinceramente non me lo ricordo. Devi ripassare un po' i video allora, dai. Ma perché quelle cose che non mi piacciono faccio fatica a rivederle. Va bene, va bene. Ah, un'altra cosa di cui volevo parlare in realtà, un'ultima cosa. Sì, sì, dimmi. Lo so che tu odi la trap. No, vabbè, l'ho già capito da come vanno le cose. Però in realtà, devo dirti la verità, mi sta iniziando a stare un po' sulle scatole anche a me. Non è che proprio l'amo. Ma più che altro perché... Quella italiana, credo. Quella italiana, perché sì. Perché vedendo i personaggi sono veramente dei buffoni, scusate. Bravissimo, proprio sono quello. Sono vecchio io, ma... Cioè, io mi ricordo che certa gente a 20 anni, almeno... della mia generazione non se la tiravano così, credo. Poi tra l'altro stiamo andando, questa questione della trap sta mandando in crisi le varie case discografiche, leggevo, perché praticamente loro cosa stanno puntando sui talent, no? Su tutte quelle persone che escono dai talent. Sì. Il problema qual è che non riescono a fare successo, e allora hanno visto che questi artistelli della trap, ma qualcuno anche bravo, metti Gali, metti adesso, Sfera e basta, per dirti. Sì, un'altra. Bravo, a me mi sta solo sulle balle a vederlo. Solo sulle vederlo, però a livello, diciamo, di autotune è bravo. Di autotune è bravo, nel senso, i suoi pezzi comunque hanno un ritorno, mettiamolo così, è bravo avere un ritorno. E le etichette hanno visto che loro hanno un seguito, quindi hanno detto va, ci buttiamo tutti sulla trap. Peccato che la trap non è una cosa dove puoi fare un progetto musicale in crescita, come può essere un artista pop, sì, per dirti, sì, no? Sì. Che puoi creare un... è una cosa che nasce e muore lì. Quindi è una cosa che manderà in crisi tantissimo le etichette da qua in avanti. Sono sicuro di questa cosa qua. Spero di no, perché sennò, cioè, già sì, è morto il mondo discografico. Sennò veramente proprio lo affossiamo. Ma la sono anche cercata loro. Però se la stanno andando un po' a cercare. Dovrebbero puntare queste cose qua. Poi anche la musica in streaming, perché un portale come Spotify manda fuori canzoni che non sono mai state incise, diventano sì, dei tormentoni, bravo. E scavalcano di... Ma è roba che comunque nasce e muore lì, ripeto, è una moda del momento, come poteva essere una moda del momento altri generi di musica che poi dopo non hanno più avuto nessun seguito. Andiamo a ascoltare il prossimo brano, che... vediamo se lo conosci. Ma ci sta nel computer? No, il titolo no, il titolo è no. Un po' lungo. Allora, diciamo di... Chi è? È One Day il brano, è il Wackelmatt Remix. One è Day... un pezzo abbastanza conosciuto, dai. Oddio, il secondo pezzo che odio. vabbè, oggi ho trovato i pezzi che odi, che te devo dire? Poi quella dopo c'è... che guarda... dice che un giorno morirò. È quello lì? Sì, dovrebbe essere lui. Oh, che è un artista, anche lui mi sembra iraniano, Asaf Avidan. Mamma mia, lui era insieme al gruppo dopo che ha fatto sta canzone. Si è sciolto. Nell'Ogen, lui ha fatto il figo, ha mollato il gruppo, ma... Sì, ma poi dopo non ha fatto più nessuno. Però, devo dirti la verità, a me il pezzo, ma un po' forse questo remix qua, per l'originale era... Wackelmatt Remix. Sì, non era male. Sì, Wackelmatt è un grande DJ. Infatti non era male. Ascolta, fai una cosa, leggi la lista dei brani e dimmi se devo togliere anche questo, nel caso, eventualmente. Stupendo! No, meno male. Almeno uno pezzo che hai messo bello. Almeno uno l'abbiamo azzeccato. No, beh, no. Per adesso andiamo ad ascoltare, quindi, One Day, Wackelmatt Remix, Wackelmatt... No, giusto, l'ho detto giusto. Wackelmatt. Di Asaf Avidan. Sì. Questa era difficile. Effettivamente, devo dirti la verità, non ci sta sul PC. Mi sembra che è dello stesso periodo di quella di prima. Probabilmente sì. One day, baby, we'll be old. Well, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. could have told. One day, baby, we'll be old. Vabbè dai, questa fine qua è proprio tipo che ti stai per tagliare le vene e via. Sì, ma io infatti ogni volta che si a me piace il pezzo, a me piace. Vabbè, ma te sei il capo della banda, sicuro, Giovanotti. che è? Ricordiamo Giovanotti che sta facendo un sacco di concerti a Milano. Ecco, se non Giovanotti. È giusto, beh, sei bravissimo. Hai visto, sono un po' bravo. No, in realtà mi piace anche la musica dei Giovanotti. Adesso vabbè, lo stavo prendendo un po' in giro, però. Beh, poi gli ultimi 3-4 album molto elettronici. No? Molto elettronici, tranne l'ultimo che è un po'. È diventato un po' piattume. Ha voluto farlo così. Vabbè, vabbè, si è un po' stereotipato. Magari qualche volta si riuscirà a tirar fuori un pezzo. Forse l'ultimo singolo non è malvagio dal punto di vista sonoro, ecco, diciamo, con questo programma. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, ci sta, ci sta. Ok. Ma ascolta un po', ma... Sento queste basi che hai inventato. No, beh, vedi, comunque riesci a capire da dove vengono, da dove provengono, guardando bene i titoli. Diciamo che... come dire, è passata ormai una settimana al festival. Ci ha lasciato qualcosa, dai. No? Sì, una sola canzone, Lo Stato Sociale, basta. Lo Stato Sociale secondo me è quella più, diciamo, orecchiabile, sì, che rimane in testa, sì, vero. E che ha fatto anche un po' più discutere. Però devo dirti la verità, tanti hanno anche criticato un po' che è arrivato ultimo. Elio e le storie tese. Meritatamente ultimi, secondo me. Ma volutamente di... loro ultimi, diciamo. Cioè, loro hanno fatto proprio la scelta di arrivare ultimi. La canzone più cagosa che abbiano fatto. Fatto, sì. Però dicono sono tanti. Sono riusciti a farlo bene, diciamo. Così. Questo è vero. Invece, i miei amici, che a me non sono piaciuti molto lì al festival, i The Colors, sono arrivati, se non erro, comunque nei primi 10. Sai chi ha prodotto il disco? No. E l'amico anche di Giorgio, quello che l'anno scorso ha prodotto il disco di Gabbani. Ah, ho capito. Quindi c'è un po' di Gallarate anche. Sì, penso che tu lo conosca. Sì. E anche il maestro nell'orchestra quando hanno fatto la loro esibizione. Ho capito. Beh, diciamo che il personaggio assoluto è sicuramente il maestro dell'orchestra. Sì, lui è il Giuseppe Verdi degli anni moderni. Beh, in fondo ci assomiglia. Sì. Grande. Ma perché lui appunto arriva da Amici. No, beh, lui ha una storia più... No. Sì. Vessicchio è da moglie in giro. Però diciamo che la notarietà... Penso che è molto noto anche per i giovani, soprattutto perché... Sì. È uno dei pilastri di Amici. Comunque ripeto, mi fanno paura a me le persone dei talent. Nel senso, io li seguo, devo dirti la verità, qualcosa seguo. Adesso inizierà un altro, Adesso inizierà un altro quale? The Voice. Ah, The Voice. Vabbè, diciamo, li seguo, i tre maggiori li seguo. Mi fanno un po' paura perché tirano fuori delle persone tutte uguali, omologate, tipo stampino. E il problema è che poi finiscono le idee, quindi devono beccare idee ovunque. Quindi la paura magari che beccano quelli magari emergenti. Li bruciano subito. No, non è che li bruciano, gli fregano le idee. Perché comunque sai, se sei corto di idee, hai un contratto, da qualche parte devi attingere. Così. Sì, è vero. Vabbè, oggi che abbiamo fatto un po' di excursus musicali un po' troppo elevati, infatti vedo che sono scappati tutti. Infatti siamo rimasti io e te, wow. Vabbè, andiamo ad ascoltare il prossimo brano, che è di Saint Weekend, immagino. Sì, dovrebbe essere l'abbreviazione di Weekend. È Make You Mine e Flappo Remix. Lui è un DJ, anche lui londinese. Avevamo ascoltato altri brani all'interno di Wolf Trips. È uno di quei brani che ammettevo che sono un po' ricercati, cioè non di facile ascolto. Né ascolto. Ma stasera sei stato abbastanza difficile. Oggi è così. Questo è già un po' più movimentato. Look in my eyes, looking at you, when I shouldn't tonight, so what do I do, cause you kind of guy, if it was up to me, then I guarantee I'd make you mine. let's cut the ties and stop flirting with the fiction in my mind. Reality keeps telling me maybe if I met you first, then you'd be mine. When you look in my eyes, looking at you. When I shut in tonight, what do I do? 'Cause you got a guy. If it was up to me, then I guarantee I'd make you mine. There's nowhere else I'd rather be than by your side. So I hope he keeps you satisfied. You don't know what you're doing to me, doing to me. Questo qua era il brano di Flappo Remix. No, è un, mi piace. Dice, sì, dai, non era così pesante come no, pensavo. All'inizio era molto più cupa, invece poi è uscito no, fuori. Dai. Così, yeah, andiamo a ballare. Va bene, dai, guarda, visto che stasera mi dici che ti sto facendo una selezione troppo cupa, ti accontento, dai, per stasera. No, ti prego. No, vabbè, allora non ti accontento, va bene. No, va no, bene. No, ormai l'hai messa in lista. No, vabbè, ci vuole un secondo a cambiarla, sai che ormai siamo diventati super tattici a cambiare tutto, ci vuole un secondo. Ormai qua aggiustiamo la regia come si... Veloce. Va bene, sono le 9:10, abbiamo già tirato un'oretta. Ah, ok. Sembra buona, dai. Sembra molto di più, sinceramente, ma non perché mi sto divertendo, però... Mi sembra tutte le cose che stiamo facendo. Sì, perché casino, noi... No? Sì, è quello il discorso. Va bene, dai. Andiamo ad ascoltarci quindi il prossimo brano, così ci prendiamo un po' di fiato. Anche... No, beh, oddio, dura 3 minutini. Potevamo prendere un po' più fiato. E loro sono i Sigma. Grande gruppo inglese. A me piace. Loro producevano. Io conoscevo i loro primi brani che erano molto drum and bass. Molto anche. No, li fanno ancora? Sì, però i primi ovviamente erano molto più. Meno mainstream, nel senso non avevano questi cantati super. Drum and bass secca proprio. Drum and bass secca. Avevano magari qualche voce campionata. Invece adesso c'è la cantante. E invece adesso è più. Sì, che è la cantante è Paloma Fight. Quella della pubblicità, se non sbaglio. Sì, di una pubblicità molto famosa di telefoni. Mettiamola così. Beh, che sponsorizza anche la radio comunque. Ah, è vero. Cioè, oddio, la radio sponsorizza questa pubblicità, mettiamola così. C'è una canzone che era My Body. Sì. Di due anni fa. Quella è veramente... No, ma guarda, gli ultimi pezzi che hanno fatto i Sigma sono molto belli. Tra l'altro hanno collaborato anche con i Niro, non Nero, che scrive Nero. Niro. E hanno tirato fuori dei brani Niro spettacolari. Sono inglesi anche loro. Non ti so dire, però sicuramente saranno di quella zona. Gli italiani non sono, purtroppo. Sì, ma infatti Sigma in Italia non è che... Beh, questo brano qui è sì, fatto. È diciamo i brani più famosi sono arrivati anche in Italia. Gli altri ve li dovete andare a cercare nel web. E cercateli che sono molto belli. Dovete andare a fare un bel viaggio, un viaggio musicale, un po' come Wolf Trips. Quindi andiamo ad ascoltare Sigma con Changing di Paloma Faith. Cioè la cantante Paloma Faith. Se l'ho detto così non si capiva molto. Infatti. Now living in the same town, trying to find something new. Broken picture frame, I've been frozen in, trying to find a better view. This ain't me, this ain't cool, this ain't what I signed up to. It's never same hand, how you'll find something new. I can't work it out what it's all about. I won't live my life through you. This ain't real, this ain't true. This ain't what I signed up to. This ain't right. Quindi la proponiamo come canzone migliore di stasera. La più allegra. La più allegra, dai, va bene, va bene. Vabbè, comunque dopo seguiamo sempre la classifica di Wolf Trips. Ti dicevo, oggi, visto che settimana scorsa mi ho ascoltato dalla posizione 5 alla posizione 1, oggi andiamo ad ascoltare, diciamo, dalla 10 alla 6, la parte bassa della classifica. La parte underground. Però, devo dirti la verità, comunque la classifica è in aggiornamento. Non è che dici ascoltiamo quella della settimana scorsa, ascoltiamo comunque la classifica poi attuale. Poi magari sulla pagina la potete anche vedere. Sulla pagina c'è, sulla pagina, questa l'ho messo dappertutto. Pagina, Twitter, Instagram. Tra l'altro vedo che è molto condivisa anche dagli artisti. Ho visto su Twitter un po' tutti gli artisti hanno retweetato o comunque hanno messo un mi piace sulla classifica. Non è una cosa carina. Non è una cosa carina, tra l'altro, anche il fatto che i buon patawawa continuano a. Si sa che. Tra l'altro, ho visto che hanno fatto un album che sta riscuotendo molto successo. Non è. Mi sa che li ho scoperti così per caso, ma. Ovviamente non arriveranno mai in Italia, però vabbè. Si sa che è così. Dipende, magari non lo so, dipende da tante cose. Se suonano da qualche parte. C'è un ammutinamento oggi. Vabbè, sì. Comunque stiamo parlando un po' dei Sigma. Buttando l'occhio un po' sulla formazione, ho visto che c'è un ex membro. Diciamo che c'è stato uno che se n'è andato. Vabbè, se n'è andato dal gruppo. Dicevo, ragazzi. E io dicevo, ma porca miseria, come fai ad abbandonare un gruppo del genere? Perché comunque. Beh, perché all'inizio magari non ha avuto quel successo. Dipende anche da quando uno molla il gruppo. Anche i Beatles. Effettivamente è iniziato nel 2010. I primi brani decenti. Diciamo che era Rude Boy. Nel 2013, sì. Tre anni dopo. Magari hanno guadagnato. Sì, ha iniziato. E alla piccola nera del gruppo, no? Ah, dici? Sì, sì. Dice che con loro hanno avuto un po' la svolta. Con l'abbandono di. A volte i gruppi hanno queste svolte. Guarda i New Order, che è appena morto il cantante. Oh, madonna, adesso faccio il figo, ma non so il nome originale del gruppo. Ma penso a te. Vabbè, comunque. Joy Division, ecco. Stavamo guardando anche i Beatles. C'era stato un abbandono eclatante. Ringo Starr che aveva preso il posto di Pete Best, che non se l'è cacato nessuno. Ma probabilmente non sapeva che. Sì, anche perché si è abbandonato, diciamo, prima dei primi Beatles. Successi. Sì. Quindi non, probabilmente ancora non si sapeva bene. Sì, la storia è lunga dei vari gruppi che hanno avuto persone all'inizio delle loro. Della carriera e poi sono saltati. Sicuramente i Rolling Stone invece sono rimasti così. Erano così, sono rimasti. Quelli seppelliranno tutti, come si suol dire. Tutti insieme, dici? Tutti insieme. In tutto il mondo seppelliranno loro. Rimarranno solo loro. No, sì, poi dopo, infatti, rimarranno sempre così. Rimarranno sempre così. Andiamo ad ascoltare il prossimo brano. Non mi ricordo bene. Chi è che la canta? No, chi la canta è Alina Baraz. Però non mi ricordo Alina bene. Alina mi dà un nome abbastanza carino. Vai a cercare chi è. Certo. Il brano è fatto con Galimatis. Sono parenti di quelli altri Galantis. No? E il brano si chiama Fantasy. Ascoltiamolo, poi dopo vediamo. Perché ho un po' di dubbi. Okay. Ho un po' di dubbi su questo brano, non me lo ricordo. Thank you. say you wanna get away. We don't need a plane, could be your escape. Take you to a place where there's no time, no space. I could be your private island on a different planet. Anything could happen. Listen to the waves, let them wash away your pain. Love could be your fantasy. Listen to the waves. They say you wanna get so high. You breathe me in like air tonight. Listen to the waves. So high, you breathe me in like air tonight. Let yourself unwind, get lost in the garden of my mind. I could be your private island underneath the palm trees. You can leave your worries, listen to the waves, let them wash away your pain. Listen to the waves. They say you wanna get so high. You breathe me in like air tonight. Listen to the waves. Quindi Tony, ti eri un po' informato sul gruppo? Sì, soprattutto su lei. Comunque i Gallimathias sono un gruppo di origine danese che... Quindi paesi freddi, ecco. Sì, però lavorano a Los Angeles, cioè. Ah, ok, solito giro, mettiamolo. Ma così, tanti che partono dal nord Europa, come gli Stargate, che è un famoso gruppo di produttori di Anna, Coldplay, vanno a lavorare in America. Anche i Daft Punk, che sono un po' più... Sì, beh, Daft Punk francesi. Ma tutti vanno in America a lavorare, non so perché. Ma... E ci saranno i cash. Uè, la console è ritornata popolosa, diciamo. Dimmi, Cristina? Tutto. Dimmi tutto. No, no, stai mangiando, ma vai tranquillo. No, non sto mangiando, okay, veramente. Ok, la caramella. No, neanche. Va bene. Dove eravate andate? Va bene, no, va bene. Eravamo andate a fare un consulto tra donne. Aia. Brutta roba, brutta roba. Già, già, soprattutto per voi maschi. Aia. Aia, aia, aia. Va bene, andiamo a ascoltare il prossimo brano di Tony. Aspetta che lancio la mia siglettina. Ah, così proprio tra. Okay, sì, sì, vai. Sì. Con gli uccellini, vedi. Vabbè, vabbè, dobbiamo crearla però sta sigla, cioè non si può fare così. Mi serve una voce, ma mi serve una voce. Hai suonato tutto te? Qualcosina sì, qualcosa, un loop. Gli uccellini l'hai suonati te? No, no, no, no, quello è ambience, ambience. Dica, Cristina. Non so cosa, non so se ce l'ha contro il tuo uccellino, questo non te lo so dire. È così, non ci posso fare niente. Poi quando poi c'è sempre la mia rubrica, lei inizia a partire con le sue risate. Sì, infatti. Beh, mi fa piacere, almeno faccio ridere. Sì, sì, fai ridere i polli e le galline. Vabbè, e gli uccellini. Vabbè, dai, parlo. Tony, io parlo solo con persone intelligenti stasera. Ale. Quindi, Deborah, giustamente, dimmi tutto. Deborah. Posso fare la mia rubrica? Dai, dai, Tony, presentaci il prossimo brano. Allora, è un gruppo inglese. Già dal nome si capisce, London Grammar, è un gruppo da 5-6 anni che è sulla scena, fa musica rock d'ambiente, cioè sono molto sinfonici, hanno una voce molto particolare la cantante, e hanno fatto il primo album nel 2013, questo è il secondo singolo che è uscito dall'album, che si chiama In Now. Sì. E sono usciti vari remix, c'è anche un remix trance già per cambiare, ma non è questo. Ah, non è questo, non è questo. Questo è di un altro gruppo elettronico inglese, i Bonomo, e hanno fatto questa versione Bonobo. Bonobo, ah scusate, Bonobo, che sono famosi le loro copertine, mi sembra che c'è tipo una ciambella. Ah, oh, sì. Sì, è vero, è vero, provate a guardare. Andiamo a guardare. Mi sembra che, non so perché, sembra una, come si chiamano le ciambelle quelle rotonde? La ciambella. Americane, no? Quelle, donuts. Donuts. Sì, sembrano dei donuts. Quelle che si mangia, sì. Homer Simpson. E loro fanno, beh, musica da ciambella. Podcast. Te la mangi, ok. Musica che è uscita col buco, vorrei dire. Vediamo che se la cerca. No, hai sbagliato, Cristina. Va bene. Dai, facciamo andiamo a ascoltare il brano. Intanto cerchiamo la copertina. Dai. Poi dopo vediamo un po' di che tratta la copertina. Quindi il brano è The London Grammar. Hey Now, Bonobo Remix. Yes. Oh, Ok, abbiamo ascoltato quindi London Grammar col brano Hey Now, Bonobo Remix. Tra l'altro il brano mi sembra di averlo già sentito nella versione originale. Hai voglia. Un pochettino, no? Hai voglia, un pochettino. Vabbè, vabbè, vabbè. Ma da, ormai quest'anno ci siamo. È uscito il loro ultimo album, secondo. Ma ultimo perché son deceduti o perché? No, ultimo cronologicamente parlando. Cronologicamente parlando. Ne ha fatti due. Va bene, va bene. No, è un bel pezzo. Grazie a loro, perché loro grazie a te che l'hai scelto. Allora, dai, mettiamolo così. Ma vedo che tu stasera sei molto più come dire, più inglese di me stasera. Sì. Stasera le azzecchi tutte, io invece proprio sono un disastro. Invece Bonobo è un musicista, scusa. Ah no, ecco, giusto. Torniamo c'era la questione della copertina. Sono confuso con il Sub Focus, che è un gruppo drum and bass, che poi è una ciambella. Non è una ciambella, ma è un disco. Ma io ho visto il Donuts. C'hai fame, dai. Avevo fame, ma ancora adesso vedo un Donuts. Cioè non lo so perché. Aspettate, che ci sono altre informazioni. Dica, l'ultimo Christian. Album. Christian. Di Cristina. Cristina, no. Ci manca, sbaglio il nome stasera. Che sai, ammazza. Non ho ancora cambiato senso. No, l'ultimo album dell'anno scorso. L'ultimo album nel 2017, l'anno scorso. Ma chi? Bonobo? No, noi parlavamo di London Grammar. Allora. Però è sempre importante saperlo. Sì. Vabbè, però anche di Bonobo, che sarà un DJ, immagino. Sì, penso che sarà un DJ. Musicista, ormai non c'è più la linea che separa le due cose. Musicista, sì, credo. Musicista, disc jockey e producer britannico. Va bene, va bene. Adesso allora, ci avviamo verso l'ultima mezz'ora di Wolf Trips. Quindi, allora, prima di ascoltare la parte bassa della classifica, oggi facciamo questa parte qui, e andiamo ad ascoltare il prossimo brano, che è di Andrew. Non mi chiedere chi sia. Comunque anche lui è un DJ, questo tizio qua, pixelato. Okay. L'unica pagina che ho trovato, tra l'altro, è su SoundCloud. Quindi... Dunque non ha niente di prodotto, almeno ufficialmente. Ufficialmente non te lo so dire, però questo brano... Ma sei un tipo allegro, Andrew. Questo brano qua si chiama Bells. In realtà l'ho trovato in una in un articolo che parlava degli ultimi, diciamo, fenomeni elettronici per i prossimi mesi. Che ricerca. Sì, andiamo ad ascoltarlo, che è già in sottofondo. Che dura, diciamo, è una base questa. È una neanche 2 minuti dura, no, forse 2 minuti precisi. Guarda, stavo facendo il calcolo adesso con secondi mancanti, secondi di durata, 2 minuti. Diciamo, disco da sveltina, quasi sì, come non averlo sentito. Qui la volevo dire io sta battuta, ma Cristina, vabbè, io comincio a tornare a vita privata, così a me. Non ho a che fare con due elementi come voi. Infatti, io e Deborah stavamo guardando cose migliori. Cosa facci come, tipo, come dolci? No, no, proprio no. Se ce li facciamo io e lei i dolci. Va bene. I donuts. Tipo, guarda questi donuts con i churros, sono buonissimi. Quindi, va bene, va bene. Va bene. Allora ci vuole Marshmallow qui. qui ci guarda che me la stai tirando. No, metti. Non sai che mi sta piacendo ultimamente. Però va bene, allora adesso facciamo così. Adesso ci ascolteremo i 5 brani della classifica. Però prima mi dicevi qualcosa di interessante della settimana. Ah, dal punto di vista musicale. Rockettaro, dai. Metallica, che sono in concerto in Italia. Cioè, hanno fatto 2 date. Sì. A Torino e a Bologna. Hanno fatto degli omaggi ad Alla, poi a Vasco. A Torino non so chi hanno omaggiato, però comunque hanno fatto questi, diciamo, regalini. Sì, infatti c'era... Non sapevo più cosa cantare. No, beh, oddio. Mi sembra una serata a Vasco e l'altra a Dalla. Ah, dalla Vasco. Dalla Vasco. E tra l'altro ho visto un po' di immagini su Facebook, dove praticamente c'erano, che so, c'era Rocchettaro triste, che diceva... L'ho vista anch'io. Che diceva, cos'è che diceva? Diceva che... Che aveva pagato un tot di soldi nel biglietto per sentire Vasco. Vabbè, dai, questa non è cattiveria, era solo un omaggio, non è che era... Forse un pezzo avranno fatto nel loro stile, tra l'altro, quindi voglio dire... Vasco ci ha guadagnato. Sai cosa sarebbe interessante? Un omaggio del genere quando vengono magari gli Slipknot o Marilyn Manson. Cioè... Mamma mia, signora. Beh, non sono me... i miei gruppi preferiti, né l'uno né l'altro. Secondo me Domenico voleva... È qui che voleva sentire, si sta mangiando le unghie per non essere andato a sentire Caruso. Va bene, allora quindi stiamo iniziando con Caruso. Caruso è un pezzone, veramente. Vabbè, dopo, facciamo così, fuori onda vi dico cosa ne penso. Allora, andiamo ad ascoltare quindi la classifica di Wolf Trips di questa settimana. Okay, ti dico già, visto che tanto non ascolteremo le prime, in realtà c'era un cambio al primo posto. Charlie Puth, sì, che lo ascolto dappertutto. Però questa versione qua, no dai, questa qua era più carina. Sì. Però diciamo che poi il resto della classifica rimane più o meno uguale, quindi ho deciso di ascoltare, diciamo, la parte bassa. C'è un po' di polvere sulle copertine, le canzoni. C'è un po' di polvere, ma in realtà ci saranno un bel po' di cambiamenti poi dalla prossima, la quindi quiete prima della tempesta. Giusto. Andiamo ad ascoltare questo brano che è di Ukiyo, che sembra Yu-Gi-Oh, in realtà è Ukiyo, con Something Like This Fitfelds. Da dove arrivano? E adesso ce ne andiamo a informare, dai. E il primo brano, diciamo, la posizione numero 10. Numero 10. Felt the cold under my skin. I've hunted down for nothing now. And why does it always have to end like this? Be mystical but sensible, and I'll hold my tongue. Could it be another memory we've missed? If you feel nothing anymore, then walk away from this. And I thought I knew what I wanted. What makes you so damn comfortable with only ending tears? Oh, and we got something like this. But they hold nothing now. An empty cage to lock down everything you need. 3 wishes won't free me at all. You got my tongue, still I hold on. Here's everything we bleed. If you feel nothing anymore, then walk away from this. And I thought I knew what I wanted. What makes you so damn comfortable will only end in tears. Oh, and we got something like this. If you feel nothing anymore, then walk away from this. Vabbè, dai, non era male. Lui viene dall'Australia. Ukiyo. Se non è No, Kiwi, un'altra cosa. Fremantle. Fremantle. Anche, sembra che venga anche da Bari, è vero. Beh, diciamo che non era male neanche il pezzo di Dalla cantato da me. Non l'ho sentito io. Mi spiace, ma stavo non ascoltando pervenuta. Non pervenuta. NP. E il volume si è alzato. Sono cose che succedono. Va bene, intanto tu avevi cercato un po' di dolci? Stavamo parlando di DJ e contorni stasera. Comincia la fame, beh, certo, siamo a stecchetto da un po'. Però abbiamo fatto l'aperitivo prima con la musica di Tony. Cioè, abbiamo fatto anche proprio l'aperitivo preciso. Vero. Poi con queste basi che ho iniziato a fare ci sta un po' di aperitivo. Comunque dobbiamo trovare un po' di cuffie anche per la Debora, che sennò si perde quando parliamo tutte quando le minchia bubbole. Quando venerdì prossimo so già che non c'è. Perché? Dunque. No, ci sono, mica lavoro. Ragazzi, andate tutti all'Esselunga e tenetela occupata. Comunque, giusto per tu, questa settimana mi sa che ci hai dato con la radio, eh. Hai preso residenza qua. Sì, è vero, ho fatto 3 giorni praticamente. Miseria. Forse anche domani. Anche domani. Questo è colpa tua. Colpa mia? Per la registrazione di stasera, no? Vediamo, magari riusciamo a evitarti il giro, dai. Va bene, andiamo a ascoltare quindi la posizione numero 9. Comunque mi sa che devo estenderla la classifica. Devo dirti la verità, non è male il suono musicale che c'è rispetto a alcuni pezzi che ho scelto stasera. Allora, lui è Kendrick Lamar, giusto? Giusto. Ed è uno che ha vinto anche un sacco di roba. 5 Grammy quest'anno. Mica male. Dietro Bruno Mars. Il brano si chiama DNA, sì, giusto, con Bruno Mars. Mi sono perso. Lui ha vinto i 5 Grammy con Bruno Mars. Mi veniva Blue Mars, non so perché, non riuscivo più a collegarmi. Grande Bruno. E stavamo dicendo, quindi, Kendrick Lamar con il brano DNA. DNA in inglese. DNA. Oggi siamo international, giusti? Stasera proprio sfruttala sta cosa, perché poi le prossime... Per una volta che riesco. Che cacchio. Però il remix è di Young Bae, che stavo guardando essere un tizio di Portland. Capì. Ho visto, è bella la pagina di SoundCloud. Anche lui praticamente DJ sconosciuto, mettiamola così, però vediamo anche un po' questo brano qua sta totalizzando molti ascolti su SoundCloud, quindi potrebbe, sono tutti DJ veramente underground questi. Non si sa, vedremo, li seguiamo nell'evolversi della loro carriera. Andiamo ad ascoltarlo quindi col brano DNA. Salute the from the prophecy. Questo era il pezzo Nigga. No dai, a me piaceva. Un po' old school mi sembra molto. Sì, sì, sì, sì. Probabilmente è quello che mi ha attirato sì, sì, all'ascolto e mi piaceva. Old school forever. Sì, sì, sì, sì, ci sta, ci sta. Pensa che, pensa che questo Kendrick Lamar mi sembra un po' tipo il prezzemolo, perché lo vedo un po' in tutte le canzoni ultimamente. Che c'è, Cristina? Che è successo? Ma dire che sono una bestia. Ah, vabbè, sì, the Beast. Dicevi che... Stavo dicendo che Kendrick Lamar... Ecco. Così facciamo anche la canzone, quella di Lana Del Rey, e siamo a posto. Stavo dicendo che Kendrick Lamar è un po' tipo il prezzemolo ultimamente. Infatti... Lo ritroviamo anche nel prossimo pezzo. E che ci fa? Ha saltato il gradino. No, ha fatto... No, allora, il brano, la posizione numero 8, è di J-Rock, che è un DJ molto famoso. Ho trovato anche un po' di suoi articoli sul magazine Rolling Stone americano, non italiano. E... Qua ci parte la denuncia. Vabbè, io non ho dato commenti, ho solo detto quello americano. E il brano si chiama King's Dead. In realtà è un featuring con Kendrick Lamar... Future, che aveva fatto dei brani per Marshmello, uh-huh. E James Blake, quindi è un mistone. Sono molto usati questi rapper. Vabbè, il periodo, poi, come stavamo parlando prima, sì. Sì, sì, sì. Questo è un brano già da 3 settimane in questa classifica, non è riuscito a sfondare tanto, infatti ce ne stiamo quasi liberando, però dai. Abbiamo quasi tirato l'acqua, dai. Bravo. Mi piace questa figura. Vabbè, andiamo ad ascoltarcelo quindi con King's Dead. Miss me with that bullshit. You ain't really wild, you a tourist. I be blacking out with the purist. I made 100,000, then I freaked it. I made 500,000, then I freaked it. I bought an 87 for the weekend. This ain't what you want, this ain't what you want. This ain't what you want, this ain't what you want. And it's like that little bitch, MVP, I don't get no sleep, no, I don't like that little bitch. Bust that open, I want that ocean, yeah, that bite back, little bitch. Do it, bite back, little bitch, need 2 life jacks, little bitch. I ain't gon' hold ya, I ain't gon' pressure, never control ya. I ain't gon' front ya, keep it 100, I don't know ya. Boss like top dog, boss my life up, crossing over. Stutter steppin', got a hall of fame and all my poster. I been ready, my whip been ready, my bitch been ready, my click been ready, my shit's been ready, my checks been ready, my shots on full, that's Armageddon. I got pull, I hope y'all ready, my tank on full, you know unleaded. I gotta go get it, I gotta go get it, I gotta go get it, I gotta go get it. My name gon' hold up, my team gon' hold up, my name gon' hold up, my team gon' hold up, my shots gon' fire, my team gon' roll up, my Nazi twice, my queen gon' roll up. I hope y'all ready, you know I'm ready, I rain all day, you know confetti. I gotta go get it, I gotta go get it, I gotta go get it, I gotta go get it. Miss me with that bullshit. You're not a gang member, you're a tourist. I be blacking out, I be blacking out. Bought a 83 Cutlass for the weekend. I got 100,000 and I freaked it. I made 500,000 and I freaked it. I put a Rolls Royce on my wrist, oh yeah. Fuck his baby mama trying to sneak this. I took her to my penthouse and I freaked it. I haven't made my mind up, should I keep it? Should I keep it? I got big dog status, it ain't no secret. Lady daddy da, slime on me now. Pass me some syrup, put me in the car. Lady daddy da, motherfucker law. Chitty chitty bang, murder everything. Bitch, I'm on the roll and I put that on the game. Yeah, miss me with that bullshit. Vabbè, siamo sferrati in 1-2-1-2 stasera. Siamo passati dall'elettronica alla roba cupa, alla roba da film. Adesso siamo a 1-2-1-2. Dammi, io vorrei sapere quanti saranno i podcast. Beh, ma abbiamo preso una larga fascia. Sì, è vero. Tra l'altro dopo do anche qualche statistica, perché su Mixcloud tu puoi decidere, diciamo, un tag, no? Che è un genere musicale, e poi sì, hai una posizione. Sì. E devo dirti, uno dei podcast che mi ha fatto... Un po' di tempo fa era arrivato molto in alto con alcuni tag. Dopo vado a fare e una piccola una, ricerca. Come si dice in Twitter la parola che va di l'hashtag. Più? L'hashtag. No, quella che... Ah, Trend Topics. Ecco, giusto. Trend Topics. Perché mi guardi così? Non conoscevo. Cavolo, tutte le volte che lo dicono. Sapevo che dice Trend Topics. Trend Topics. Cioè, la parola più ricercata in quel momento. Trend Topics. Tricks. L'hashtag. Tricks. Ok, la smetto. Vabbè. Stavo facendo gli effetti di me stesso. Vabbè, andiamo a ascoltare quindi la posizione bla bla bla bla bla bla bla bla 7. Questa è la Oggi sto facendo questa, la dovevi registrare. Questa la dovevi registrare. E quando elabori, no? E lui è Robotaki. Allora, stanno dicendo, lui, tu, Tony, dicevi, sì, sicuramente è, diciamo, giapponese. Orientale. Orientale, sì, orientaleggiante. Penso che più cinese. Però lui è di Toronto, Canada. Però effettivamente si chiama Preston Anthony Chin e se andiamo a vedere effettivamente un po' i lineamenti, diciamo, orientaleggianti ce li ha. Magari è eschimese. Può beh, essere. Beh, allora è nordico, più nordico di noi sicuramente. Di me sicuro. Beh, anche di me. Beh, comunque sta avendo un discreto successo Robotaki, anche con altri brani. Andiamo ad ascoltare questa sera il brano che si intitola Together We Are Screwed. Mamma mia, stasera. Stasera proprio sono lanciato. Stasera andiamo ad ascoltarlo, quindi. Every morning I see you in the daylight. Hang over blues, I'm hung over too. Yeah, we're both a mess, we just can't get. È un cibo giapponese. Sì. Hai trovato che cos'è? È un cibo giapponese, ma cosa? Scusa, pesce. Non sono riuscito ancora a scoprirlo. A mangiarlo. Granchi. Adesso cerchiamo. Beh, comunque è bello, bello. Sembra un po' Kaigo, dicevi. Sì, sì, sì. È che anche quando stai male, che è un po'. Fai Kaigo. Qui veramente siamo già arrivati a lunedì, eh? Ecco. Io te lo dico. No, stasera abbiamo fatto una puntata fin troppo seria. Non abbiamo dato le nostre solite battute stupide. Sì, perché io me ne sono andata a un certo punto, quindi. Poi non hai dato neanche il meteo. Cioè, proprio stasera è una puntata scarna, scarna. Sì, veramente. Come te. Come me, vabbè. Andiamo ad ascoltare la posizione numero 6, visto che ci avviciniamo ormai alle 10. Di dove sono questi? Allora, loro sono. È una tizia di Phoenix, Phoenix, United States. Si chiama Kylie Morgue. Sembra Kylie Minogue vagamente. Come No, è vero, è vero, è vero. Ha rilasciato questo EP che si chiama Medusa EP. E c'è un brano che effettivamente è quello più ascoltato, devo dirti la verità, anche in vari. Che bello, vuol dire che nel nostro paese non è disponibile. Non è disponibile nel tuo paese, bravo, è vero Italia va. Ecco, non so come l'abbia trovato. Sai che io faccio le mie solite ricerche. Ma un giorno ti spiegherò da dove arrivano le mie fonti. Ok. E il brano si chiama Unfortunate Soul e è in salita, posizione numero 6, quindi anima sfigata. Ma anima sfigata. I nostri amici Patawawa? I Pata Uova, allora, dato che non abbiamo ascoltato tutte le posizioni, i Pata Uova sono alla quarta posizione questa settimana. Ormai sono lì, però. Ormai sono. La patata uova. Hanno fatto la loro storia. Io l'altra volta li ho invitati, rinnovo ancora l'invito. Ci hanno messo il like sia su Twitter che su Facebook. Sì, sì. Che bello. Grandissimi. Quindi li salutiamo. Li salutiamo anche se stasera, mi sa che. Speriamo di vederli qua. Non sanno ancora che dovranno scendere. Questo i like è sicuro, forse che per stasera. Beh, effettivamente su Facebook non metto l'andamento della canzone. Metto solo la foto, quindi. Andiamo ad ascoltare quindi Kali Morg con Anima sfigata, Unfortunate Soul. Wooden case where I lay, would you let me out to play? Crystal heart in the graveyard, I think it's time for a new start. Blinded eyes to my surprise, you long to see what you can find. Flightless bird, I know you're hurt, it's not the life that you deserve. And I want you to know that I'm an unfortunate soul. Vabbè, dai, l'anima è un po' sfortunata, però la canzone mi piace. Sì, e poi mi sembra un EP, che un bel EP. Lei è una ragazzina, cioè molto giovane. Molto giovane, molto questa, giovane. Questa, come dire, adolescenziale. Sì, un brano tranzillo. Poi, tra l'altro, non è neanche un album, è un EP, quindi si lascia immaginare che ancora di strada da fare ne abbia. Però mi piace anche questa idea qua, cioè di trovare anche i nuovi talenti che non vengono fuori da... Ecco, noi siamo contro, tra virgolette. Beh, contro no, perché contro, sai, no, dai, no, no, non contro so se no. È una percezione mia che all'estero i talenti invece vanno bene. Cioè, beh, hanno tirato fuori le Spice Girl, sì, vabbè, Anastasia, hanno tirato fuori un sacco di gente. Sì, ma ancora adesso, cioè, hanno più valore all'estero che qua, credo. Sì, eh? Sì, ma all'estero c'è molto più risonanza musicale. Andiamo ad ascoltare l'ultimo fenomeno della giornata, dai. Marshmallow? Sì, marshmallow. Visto che avete parlato di dolci, di donuts, andiamo ad ascoltare anche marshmallow. Scusa ancora la battutaccia, dulcis in fondo. Dulcis in fondo, arriviamo ad ascoltare Marshmallow. Con Khalid, che è un rapper. Strano, guarda, strano, eh? Strano che non fanno un feat con un rapper. Il brano si chiama Silence, quindi ci sta come chiusura. Okay. E poi niente, poi

No, perché? Soffitta no, no, no. Sono passate per veloce. Per noi donne, sì. No, no, per noi no. Per noi ci sono ascoltati un po' di musica alternativa, dai, ci sta. Rispetto a quella che ci sarà domani sera. Domani sera meno male che ce la Deborah domani sera. Come si chiama quella cartella balli di gruppo? Aspetta che mi prude il naso. Aspetta, mi prude anche l'occhio. Per il culo a vita verrà preso. Ricordiamo anche per chi non andrà ad ascoltare la musica alternativa dei nostri DJ che c'è la festa di Radio Lupo. Ah, domani sera sì, giusto, caffè. Giusto. Sì, sì. All'Opera Rock Caffè. Si ascolterà rock di tutti i tempi. Se invece volete ballare, ecco, allora, volete ballare il la Ligallit. Vi consiglio il ballo di Simone. Passate alle parti di Bannate, boh, non so il nome del locale. No, no, non possiamo neanche pubblicizzarlo sì, perché no, non è collegato con la radio, però. Vabbè, vabbè, dai. Però ci si diverte, dai. Dove sentite la Ligalli, fermatevi. Na na na na na na na na na na. Questa è la Ligalli? No, è bandiera gialla. Non mancherà nemmeno quella, no? Ah, beh. Chiarissimo, direi, eh. Come no, minchia, più chiaro di così se muore. Vabbè, vabbè, dopo questa bella caricata per domani sera, avete proprio caricato tanto, eh. Siamo i tuoi fan. Grazie, grazie, grazie. Saremo tutti sotto la console. Che poi hai fatto una bella proposta, visto che in teoria dovrebbe finire verso mezzanotte. Ti la lancio a lei, quindi potremmo anche andare poi dopo la serata di Radio Lupo. E ti porti dietro la tua musica. Là, giusto, giusto. Metti giusto. Un po' di gruppo. Si sa l'età, mi sa che sarà qualcosa. Secondo me è meglio quella che... Vabbè, dopo che non so se continueremo a fare questo programma in radio, no. Queste cose. Ciao, ciao. Direi che ci salutiamo e ci sentiamo settimana prossima. Buon carnevale a tutti. Ciao, ciao, ciao. A tavola. Quando questi esemplari cercano il cibo, travolgono tutto sul loro percorso. Famiglia scatenata! Solo nei 500 negozi Original Marines troverete l'abbigliamento per la vita selvaggia di tutti i giorni. Original Marines! Razza Original! Tutti i mercoledì dalle 23 alle 24, tutti i migliori brani reggae e reggaeton selezionati per voi dai Lupi dei Caraibi. Scarica l'app Radio Lupo Solitario per non perderti nessun podcast del programma. Solo su Radio Lupo Solitario. È aperto il primo Original Amsterdam Cannabis Store in esclusiva a Gallarate. Prodotti alimentari, bibite, gadget, abbigliamento e souvenir. Tutti prodotti originali provenienti dalla mitica Amsterdam. Ci trovi in via Dominzoni 14 a Gallarate. Mi raccomando, cerca la nostra pagina su Facebook o visita il sito www.cannabistoreamsterdam. Ah, non dimenticare, fly down. Musica, Lupo Solitario. Musica, musica, musica.